30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Un bacino fluviale sano è indispensabile per assicurare lo sviluppo economico, sociale e culturale di una regione. L'ICPDR, la Commissione Internazionale per la Protezione del Danubio, ha rilanciato l'impegno dell'organizzazione basata a Vienna per costruire una politica fluviale continentale. Nel tempo della grande crisi, spiega l'organizzazione, è prioritario conoscere meglio il Danubio, il fiume d'Europa per eccellenza, non solo perché il suo bacino accoglie 80 milioni di persone, ma anche perché la tutela dell'ambiente e delle risorse lungo i suoi 2.900 chilometri di sviluppo, dalla Germania al Mar Nero, rappresenta un banco di prova delle capacità di collaborare tra le nazioni europee. Cari ascoltatori di 30 minuti in cronaca, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro programma che ci porta questa sera lungo il grande fiume d'Europa, il Danubio, l'autostrada blu, insomma quanti termini per raccontare questa via d'acqua che dalla Germania, attraverso e bagnando 10 paesi, raggiunge il Mar Nero. Ma per parlare in fondo anche in questa chiave dell'Europa, delle sue complessità, delle sue bellezze, delle sue possibilità, abbiamo un ospite davvero d'eccezione, perché non credo che molti possano vantare nemmeno l'idea di attraversare il continente e non solo il Danubio, lo sentiremo, seguendo appunto quelle che sono le vie d'acqua, quelle che per secoli sono state poi le principali strade di comunicazione delle merci, delle persone. Allora andiamo subito sul Danubio, dove ci attende Giacomo De Stefano. Buonasera Giacomo innanzitutto. Buonasera, come state? Buonasera. Tutto bene. Allora Giacomo, ti raggiungiamo in questa fase in Serbia, è giusto? Sono in Serbia, sì sì, oramai sono a Novi Sad, è bellissimo. Devo dire che l'approccio con la Serbia, in questo mondo balcanico, per me è stata una novità ed è entrare, come al solito, in un paese che si chiama Danubio, non Serbia, con delle sfumature leggere che cambiano. Ecco, innanzitutto l'avventura, il viaggio di Man on the River, tra l'altro vi invito a guardare appunto su www.manontheriver.com perché c'è il racconto, ma ci sono delle foto bellissime, ci sono foto ormai da un anno che raccontano l'Europa vista dal fiume. Raccontaci la ragione di questa tua avventura. Ma la ragione è molto semplice, nasce in fondo dal Po, quindi c'è molta anche del nostro eridano in questo viaggio, del viaggio che feci nel 2008, proprio seguito tra l'altro da Radio 24 tutti i giorni. E io ho pensato che queste vie d'acqua ci hanno dato tutto, acqua, cibo, vie di comunicazione, idee, e che cosa noi stiamo dando a queste vie d'acqua? La risposta mia è stata i miei escrementi all'epoca quando feci il Po. Per i grandi fiumi d'Europa il discorso è lo stesso. I tre obiettivi del mio viaggio sono la protezione delle acque, un turismo lento e sostenibile che più che altro è un viaggiare lentamente, e poi riscoprire le economie lungo questo fiume, le economie sostenibili che sono possibili. Per quello sono partito dall'Inghilterra, da Londra, dal nord verso il sud e da ovest verso est, cioè dai paesi più ricchi che i fiumi li tutelano già da diverso tempo e che hanno riscoperto una economia che oserei proprio definire molto molto ricca e florida, e altri paesi invece nei quali sto entrando che purtroppo ancora non hanno questo rapporto. Lo hanno avuto in passato, ma stranamente lo hanno completamente dimenticato. Un rapporto appunto storico, antichissimo. Il Danubio è davvero una via fluviale, intere città sono di fatto state costruite anche con i materiali che hanno risalito il grande fiume. Oggi il grande fiume è anche una sequenza di chiuse, di impedimenti, di dighe. Però prima di procedere, una domanda: chi è Claudia? Beh, Claudia è la mia compagna, la mia amante, mia madre, la mia casa, il mio ufficio, la mia cucina, è la mia barca. È la tua barca, dunque. Che abbiamo costruito con amore, si chiama Claudia in onore al nome romano di Chioggia, una città che è l'alter ego di Venezia, una città più semplice, più vera, fatta di pescatori, di gente originarie che offre delle bellezze straordinarie, mi hanno aiutato tantissimo nella preparazione del viaggio. E per questo si chiama Clodia la barca. Ecco, un piccolo dato tecnico, anche se non è elegante chiedere i numeri di una signora, ma per dare un'idea ai nostri ascoltatori, quanto è lunga Clodia? Clodia è lunga 5,60 m. 5,60 m. 1,50 m di larghezza, ha due vele, quindi quando c'è vento uso il vento, quando non c'è vento uso i miei due piccoli motori che sono le mie braccia. Due piccoli motori che con i quali intendi, con la vela anche, e questo diciamo per concludere il progetto, raggiungere Istanbul. Esatto. Naturalmente seguendo il Danubio fino al Delta, una regione straordinaria, tra Romania e Ucraina, e poi costeggiando, bordeggiando. Ecco, questa è l'avventura, l'avventura che, come avete capito, è un'avventura diciamo umana, molto più che sportiva, ma vi invito ancora a leggere su manontheriver.com quelli che sono i dettagli, soprattutto a vedere, a visualizzare i luoghi. Torniamo al tema di partenza, Giacomo, l'ambiente. Tu hai detto subito, c'è una differenza tra il nord che ha imparato di nuovo a proteggere i fiumi. Tra le foto che ricordo con più interesse c'è quella della capitale finanziaria d'Europa, quindi una città tedesca dal nome di Francoforte, e che dava tutta l'aria di avere fatto un grande lavoro di ripristino sul fiume. Certo, di fatto il Meno che passa, Frankfurt, si chiama Frankfurt am Main, quindi Francoforte sul Meno, la dice lunga sull'importanza di questo fiume. Era diventato un canale, era diventato un fiume dove forse nemmeno i batteri potevano sopravvivere per l'inquinamento, e negli ultimi 40 anni si sono create delle strategie, delle politiche della città che hanno portato il fiume a diventare un ambiente meraviglioso. Io sono arrivato a Francoforte accolto da decine di barche a remi, a vele, tra cui anche una veneziana, addirittura un incontro straordinario. Io mi giro, vedo questa piccola mascheretta e dico: ma sono ubriaco, non sono mai partito da Venezia. E i progetti che hanno proprio portato alla vivibilità di questo fiume, perché uno degli obiettivi di questo viaggio è proprio far capire che se il fiume è vissuto, soprattutto da chi viaggia su barche lente, con un impatto minimo, che lasciano solo una scia che sparisce dopo pochi metri e non residui e oli eccetera eccetera, tutti questi mondi straordinari che si chiamano fiumi, che è un'altra definizione di vita, possono respirare, tornare a vivere, e lo fanno da soli, collaborano molto, basta poco in fondo, perché l'acqua scorre e porta vita. Questa è la grande differenza tra le nazioni del nord, che hanno capito l'immenso danno che avevano fatto e ovviamente l'immensa energia che poi richiedeva ripristinare questi fiumi, quindi si sono dati da fare. Londra per prima, Londra beve l'acqua del Tamigi oggi. Londra beve l'acqua del Tamigi. Assolutamente, sì, abbiamo intervistato i tecnici e direi che l'80% dell'acqua che si beve a Londra è del Tamigi, presa ovviamente non proprio... Certo, trattata sarà, però no, il concetto è importante, insomma non è acqua che arriva in camion da chissà dove, esatto, è acqua del fiume della città. Ma è anche un discorso di economia, cioè è molto più economico prendere acqua da un fiume, da acque di superficie, che non da acque di falda. E le acque di falda mantengono gli inquinanti molto più a lungo, mentre le acque di superficie li smaltiscono in maniera molto più veloce. Una goccia che parte dal Monviso in una settimana arriva al mare, quindi il Po potrebbe essere potabilizzato in una settimana se non scaricassimo più nulla. I fondali ovviamente no, i fondali mantengono inquinanti, metalli pesanti molto ma molto più a lungo, quindi questo è il ci vorrebbe problema. Più tempo. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera e un saluto da Gigi Donnelli, Carmelo Lauricella in regia. Subito dunque sul Danubio con Man on the River, con Giacomo De Stefano. Giacomo, dunque parlavamo del fiume europeo per eccellenza, in realtà fiume anche di complessità. L'ICPDR, che è l'organizzazione internazionale che diciamo coordina una serie di lavori sui temi ambientali, su quelli economici, che è basata a Vienna, non nasconde il fatto che una vera politica europea e internazionale del fiume fatica ad affermarsi, perché ci sono stati differenti, perché il fiume per sua natura attraversa, come dire, mondi anche economici molto diversi. So che anche tu sei in realtà al lavoro su un progetto europeo, raccontacelo per favore. Dunque, il progetto si chiamerà B-Water, semplicemente sea acqua, ed è una vecchia barca di 18 metri, una vecchia barca inglese da salvare, perché a me piace un po' occuparmi di questi salvamenti, che porterà attraverso l'Europa 25.000 km lungo i fiumi ed i mari europei, nordafricani e dell'est, dell'est europeo, le idee di persone che hanno avuto delle buone idee, le hanno realizzate, e allo stesso tempo raccoglieremo idee, persone che non hanno possibilità di raccontarle, quindi di paese in paese, di città in città ci fermeremo, daremo alle persone la possibilità di raccogliere e di portare su un archivio online che chiameremo l'archivio liquido della memoria, una serie di testimonianze, alcune delle quali anche stanno per sparire, perché molti dei personaggi che hanno scritto la storia d'Europa queste cose non le hanno mai raccontate e si trovano lungo questi fiumi, questa rete incredibile capillare che bagna tutta l'Europa, straordinaria. Ecco, ma il passato del sistema fluviale europeo è davvero straordinario, ma vorrei che tu ci aiutassi un po' a prospettare il futuro. Quando dici che paesi del nord, appunto, quelli che genericamente definiamo più avanzati, lavorano su questi fiumi, a che scopo? Che cosa c'è, oltre al piacere ovviamente che di per sé basterebbe di avere vie d'acqua pulite e praticabili? Beh, allora, ci sono tantissime cose. La prima cosa è l'acqua. L'acqua, hanno capito che il risparmio, come dicevo prima, economico è enorme, cioè l'acqua di superficie potabile, e in Francia noi bevevamo l'acqua dai canali, su consiglio dei sindaci stessi, che dicevano l'acqua che esce dai nostri rubinetti è quella dei canali. Non aggiungiamo nemmeno il cloro di norma che la normativa europea prevede. Il trasporto è fondamentale, perché sta diventando una piaga europea, non solo per i costi, ma anche per il collasso di un sistema che stradale e anche ferroviario che è veramente allo stremo. La Cina sta comprando i porti sul Mar Nero, sta pensando di deviare le proprie rotte sul Danubio, con anche dei lati. Io non sono così favorevole a questa navigazione, ai trasporti. Io penso che si debbano costruire le barche adatte ai fiumi, non adattare i fiumi alle barche, come l'ICPDR che abbiamo intervistato, che tra l'altro ci ha dedicato una copertina dell'ultimo numero, che si chiama Donau Watch. Siamo stati molto felici e orgogliosi di questo. Lo sanno anche loro, è una grande battaglia quella dei fiumi. Cioè, è proprio un tema molto forte, perché c'è di mezzo l'acqua, e l'acqua è in questo momento il tema che tutti affrontano. Sono stato a Marsiglia recentemente al Forum Internazionale sull'acqua, e devo dire che c'è da mettersi le mani nei capelli, perché le nazioni come Kirghizistan, ricche d'acqua, stanno per diventare un po' come il supermercato del pianeta, dove i ghiacciai, le dighe, tutti questi grandi ecosistemi che devono dare vita rischiano di essere massacrati. Quindi, insomma, come dire, teniamo il nostro not in my backyard, no, teniamo il nostro giardino pulito, gettiamo i nostri rifiuti nel genere. Altrove. Giacomo, il tuo viaggio è naturalmente anche, credo soprattutto, una sequenza di incontri. Ora hai attraversato soltanto nella parte danubiana, dunque la Germania, l'Austria, poi c'è la Slovacchia, se non ricordo male, l'Ungheria, e poi entri tra Serbia e giù verso le Porte di Ferro. Ecco, condividi con noi qualcuno di questi incontri fluviali, in che modo sono diversi da quelli che si fanno in una vacanza normale? Io penso che, ne parlavo proprio stamattina, è venuto a trovarci un ragazzo serbo, si chiama Vladimir Papovic, che farà un pezzo di strada con noi, e lui mi diceva le stesse cose. Lui viaggia sul fiume e dice che sul fiume, come tutti, batte un altro cuore, pulsa un'altra vita. Io penso che sia proprio l'essere in risonanza con l'acqua, che è il 70% del nostro corpo. La gente sul fiume ti aiuta, se c'è un problema tutti mi dicono: non ti preoccupare, se tu avrai un problema la gente del fiume ti aiuterà. Questo vuol dire che c'è questa affinità elettiva molto forte e soprattutto questa solidarietà. In fondo l'acqua che si muove, ubi fluxus, ibi motus, per usare un motto antico e legato anche a un movimento artistico contemporaneo. Dove c'è il movimento, c'è questa vita, le società di terra tendono un pochettino ogni tanto a sedersi, no? A fare vita da bar in maniera forse eccessiva, e le persone dimenticano questa chiave che si chiama solidarietà. Allora, Giacomo De Stefano, una continuità che c'è dal Danubio anche rispetto all'esperienza precedente sul Po, voglio dire, si parla una stessa lingua dunque tra chi abita lungo le sponde di un fiume? Assolutamente sì, si parla la lingua di chi vive una realtà basata sulla solidarietà. Il fiume può creare grandi problemi, può mettere le persone in difficoltà e l'aiuto che serve è immediato, spontaneo. Sul fiume tu sei quello che sei, arrivi e sei assolutamente nudo. Le persone ti valutano e ti giudicano da come tu ti comporti, da come tu ti muovi sul fiume, e di conseguenza ci sono dei rapporti che vanno al di là dei confini. Io adesso mi trovo in Serbia, però la lingua che parlo, dei gesti, dei sorrisi, degli ormeggi, le persone che si rapportano con me sono le stesse che ho incontrato sul Po a Calendasco, a Soprarivo di Calendasco o a Revere. C'è proprio questo mondo, questa autostrada liquida, come la definisce Magris, credo, che in fondo rende molto bene questa idea di unione. L'abbiamo dimenticato, l'Europa forse ha dimenticato i propri fiumi e sta cercando di ricostruirli, perché sono quelli che hanno unito il nostro mondo, mica le strade. L'Europa dunque da cui siamo partiti, l'Europa che deve imparare anche nella sua complessità a tutelare questo bene straordinario che è il Danubio. Allora, in conclusione, Giacomo, il viaggio prosegue, quando pensi di essere al Delta, insomma, cosa ti aspetti di portare in fondo in queste settimane che ti mancano per raggiungere il Mar Nero? Io penso di essere verso agosto sul Delta, anche prima, non so, perché l'estate, il vento ci può aiutare. Ieri abbiamo fatto delle veleggiate in 3 ore 50 chilometri, a volte ne facciamo 10 in una giornata intera perché il vento è contro di noi. Certo, dipende dal fiume e dal vento, insomma. Sì, e poi sto entrando in questo mondo che per noi, tra virgolette, occidentali, è un po' il mondo della follia, del mondo di Kusturica, di Bregovic, di questo universo musicale che ti prende dentro e che effettivamente è così. Noi siamo entrati già in Ungheria, l'abbiamo sentito, ma effettivamente qui adesso hai la percezione di questa follia, cioè tu incontri le persone che ti danno l'anima, ti danno tutto, e senti che se fai un errore questi sarebbero tranquillamente disposti a tagliarti la gola. C'è un mondo arcaico proprio di grande mondo, oserei dire molto virile, anche perché c'è proprio questo machismo imperante. Anche questo aspetto e questa complessità. Giacomo De Stefano, grazie di essere stato con noi, naturalmente buon viaggio, continueremo a raccontare l'avventura di Giacomo e di Claudia. Noi però adesso abbiamo concluso, grazie anche a Carmelo Lauricella in regia. 30 minuti in cronaca torna come sempre sabato prossimo a partire dalle 19:30. Buon fine settimana a tutti voi.